record. Ecco la grande novità, il sogno che ci porta via dal nostro solito tran tran. Un nuovo record che ognuno sente come suo, un po' di alloro sulla fronte, una girandola di luce dentro il buio. Record, mesi di intensa attività, fra le palestre e i palasport, con l'aggressiva volontà di fare un record che viva forse più di noi, che stiamo un metro sopra gli altri, sperando che nessuno ci raggiunga mai. Ma quanto durano i record a questa velocità, che ci fa perdere l'eco di tutto quel che si fa. Se chi si ferma è perduto e non c'è prima né poi, anche il presente è passato ed è già fuori di noi. Ecco un'esaltante malattia che sfiora la felicità nella vittoria degli eroi che fanno record, ma gli sconfitti siamo noi quando crediamo nei perfetti che vanno a vincere per chi non vince mai. Quando finiscono i record e si rimane di là, dall'altra parte del gioco, fra mille facce da bar, e si racconta un amico che sa a memoria oramai tutti i ricordi di un record che è solo dentro di noi. Sempre qua, davanti ai nuovi limiti che un record ci darà. Se mai non sarò, non sono un uomo da record e forse mai lo sarò.